Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il cardinal Federigo, intanto che aspettava l'ora d'andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano Crocifero con un viso alterato. «Una strana visita, strana davvero, monsignore illustrissimo!» «Chi è?» domandò il cardinale. «Niente meno che il signor!» riprese il cappellano, e spiccando le sillabe con una gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi soggiunse: «È qui fuori, in persona, e chiede nient'altro che d'essere introdotto da vossignoria illustrissima!» «Lui!» disse il cardinale con un viso animato, chiudendo il libro e alzandosi da sedere. «Venga, venga subito!» «Ma...» replicò il cappellano senza muoversi. «Vossignoria illustrissima deve sapere chi è costui. Quel bandito, quel famoso...» «E non è una fortuna per un vescovo che a un tale uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare?» «Ma...» insistette il cappellano. «Noi non possiamo mai parlare di certe cose perché monsignore dice che le son ciance. Però, quando viene il caso, mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, monsignore, e noi sappiamo positivamente che più d'un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro...» «E che hanno fatto?» interruppe il cardinale. «Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza coi disperati più furiosi e che può essere mandato...» «Oh, che disciplina è codesta!» interruppe ancora, sorridendo, Federigo. «Che i soldati esortino il generale ad aver paura!» Poi, diventato serio e pensieroso, riprese: «San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare subito, ha già aspettato troppo.» Il cappellano si mosse, dicendo tra sé: «Non c'è rimedio. Tutti questi santi sono ostinati.» Aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dov'era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte, a bisbigliare e a guardar di sott'occhio quello, lasciato solo in un canto. S'avviò verso di lui e intanto, squadrandolo come poteva con la coda dell'occhio, andava pensando che diavolo d'armeria poteva essere nascosta sotto quella casacca e che veramente, prima di introdurlo, avrebbe dovuto proporgli almeno... Ma non si seppe risolvere. Gli si accostò e disse: «Monsignore, aspetta vossignoria. Si contenti di venire con me?» E precedendolo in quella piccola folla che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate le quali significavano: «Cosa volete? Non lo sapete anche voi altri che fa sempre a modo suo?» Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte, come a una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale ubbidì. I due rimasti stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza straziato da due passioni opposte: quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall'altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile a confessarsi in colpa, a implorare un uomo. E non trovava parole, né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, Si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave, che aumentando la fiducia mitigava il dispetto e senza prender l'orgoglio di fronte l'abbatteva e dirò così gli imponeva silenzio. La presenza di Federico era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto dagli anni, l'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con la canizie, nel pallore, tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginale. Tutte le forme del volto indicavano che in altre età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza. L'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna di una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua di una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. E sotto a quel fosco, a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di una tale visita, tutto animato, «Oh», disse, «che preziosa visita è questa! E quanto vi devo essere grato di una sì buona risoluzione! Quantunque per me abbia un po' del rimprovero!» «Rimprovero!» esclamò il signore maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. «Certo, ma è un rimprovero», riprese questo, «che io mi sia lasciato prevenir da voi, quando da tanto tempo, tante volte avrei dovuto venir da voi, io». «Da me, voi? Sapete chi sono? V'hanno detto bene il mio nome!» «E questa consolazione che io sento e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi paregli che io dovessi provarla all'annunzio, alla visita di uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare. Voi, dico, che avrei dovuto cercare. Voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato. Voi dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare, se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le maraviglie e supplisce alla debolezza, alla lentezza dei suoi poveri servi». L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancor detto né era ben determinato di dire. E commosso ma sbalordito stava in silenzio. «E che», riprese ancor più affettuosamente Federico, «voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare?» «Una buona nuova io? Ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio?» «Che Dio v'ha toccato il cuore e vuol farvi suo», rispose pacatamente il cardinale. «Dio, Dio, Dio! Se lo vedessi, se lo sentissi! Dov'è questo Dio?» «Voi me lo domandate? Voi? E chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore che v'opprime, che v'agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo v'attira? Vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh, certo, Ho qui qualcosa che m'opprime, che mi rode. Ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federigo, con un tono solenne come di placida ispirazione, rispose: cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuol cavare da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. L'innominato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentire quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo. Che gloria, proseguiva Federigo, ne viene a Dio? Son voci di terrore, son voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma d'una giustizia così facile, così naturale. Alcune forse purtroppo di invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta fino a oggi deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusar voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa far di voi. Chi son io, pover'uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal signore? Cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover'uomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere operare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? E farvi salvo? E compire in voi l'opera della redenzione? Non sono cose magnifiche e degne di Lui? Oh, pensate, se io, omiciattolo, io, miserabile e pur così pieno di me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute che per essa darei con gaudio, egli m'è testimonio, questi pochi giorni che mi rimangono. Oh, pensate quanta, quale debba essere la carità di colui che mi infonde questa, così imperfetta, ma così viva, come vi ami, come vi voglia, quello che mi comanda e mi ispira un amore per voi che mi divora. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta. Poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. «Dio grande e buono!» esclamò Federigo alzando gli occhi e le mani al cielo. «Che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia? Perché mi faceste degno d'assistere a un sì giocondo prodigio?» Così dicendo, stese la mano a prender quella dell'innominato. «No!» gridò questo. «No! Lontano, lontano da me voi! Non lordate quella mano innocente e benefica! Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere. Lasciate, disse Federigo prendendola con amorevole violenza. Lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici. È troppo, disse singhiozzando l'innominato. Lasciatemi, monsignore. Buon Federigo, lasciatemi. Un popolo affollato vi aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta, per sentirvi. E voi vi trattenete con chi? Lasciamo le 99 pecorelle, rispose il cardinale. Sono insicuro sul monte. Io voglio ora stare con quella che s'era smarrita. Quelle anime sono forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo. Forse lo Spirito Santo mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera che esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancor conosciuto. Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, cedette, come vinto da quell'impeto di carità. Abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar l'armi della violenza e del tradimento. L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: «Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, una gioia». Sì, una gioia quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita. È un saggio, disse Federigo, che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrare risolutamente nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere. Me sventurato, esclamò il Signore, quante cose le quali non potrò se non piangere, ma almeno ne ho di intraprese, d'appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo. Una ne ho che posso rompere subito, disfare, riparare. Federigo si mise in attenzione e l'innominato raccontò brevemente, ma con parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoperato noi, la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina e come aveva implorato e la smania che quell'implorazione aveva messa addosso a lui e come essa era ancora nel castello. «Ah, non perdiam tempo!» esclamò Federigo ansante di pietà e di sollecitudine. «Beato voi! Questo è pegno del perdono di Dio! Far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate essere di rovina!» Dio vi benedica, Dio va benedetto. Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata? Il Signore nominò il paese di Lucia. Non è lontano di qui, disse il cardinale. Lodato sia Dio, e probabilmente... Così dicendo, corse a un tavolino e scosse un campanello. E subito entrò con ansietà il cappellano Crocifero e per la prima cosa guardò l'innominato. E vista quella faccia mutata e quegli occhi rossi di pianto, guardò il cardinale. E sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendogli in volto come un grave contento e una premura quasi impaziente, era per rimanere estatico con la bocca aperta